Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Giugno 1971. Cara Mara, le scrivo per darle una notizia dolorosa. Mio fratello Michele è morto a Bruges in un corteo di studenti. È venuta la polizia e li ha dispersi. Lui è stato inseguito da un gruppo di fascisti e uno di questi gli ha dato una coltellata. Sembra che lo conoscessero. La strada era deserta. C'era con Michele un suo amico e questo è andato a telefonare alla Croce Rossa. Michele intanto è rimasto solo sul marciapiede. Era una strada dove c'erano tutti i magazzini ed erano chiusi a quell'ora, cioè le 10 di sera. Michele è morto al pronto soccorso dell'ospedale alle 11. Quel suo amico ha telefonato a mia sorella Angelica. Sono andati a Bruges mia sorella, suo marito e Osvaldo Ventura. L'hanno portato in Italia. Michele è stato sepolto ieri a Roma accanto al nostro padre, deceduto lo scorso dicembre, come forse lei ricorda. Osvaldo mi ha detto di scriverle. Lui è troppo sconvolto. Sono anch'io sconvolta, come lei può immaginare, ma cerco di farmi forza. La notizia è uscita su tutti i giornali, ma Osvaldo dice che lei certo non legge i giornali. So che lei voleva bene a mio fratello. So che vi scrivevate. Io e lei ci siamo conosciute a una festa in occasione del compleanno di Michele l'anno passato. Io mi ricordo molto bene di lei. Abbiamo creduto di doverla informare della nostra immensa perdita. Viola. Giugno 1971. Cara Mara, so che Viola ti ha scritto. Io ora sono qui in casa di mia madre con la mia bambina. Faccio compagnia a mia madre e passiamo insieme le giornate immobili che seguono una disgrazia. Sono giornate immobili, anche se le riempiamo di cose da fare, di lettere da scrivere e di fotografie da guardare. E sono giornate di silenzio, anche se cerchiamo di parlare il più possibile, di prenderci cura dei vivi, e un poco si raccolgono i ricordi, magari quelli più remoti, che sembrano più innocui. Un poco ci si perde in particolari minimi che riguardano il presente, e magari si parla a voce alta e si ride forte, per essere sicuri che non abbiamo perduto la facoltà di pensare al presente e la facoltà di parlare e ridere forte. Ma appena stiamo zitti un istante, sentiamo il nostro silenzio. Ogni tanto viene Osvaldo, il quale non porta nessun mutamento, né al nostro silenzio, né alla nostra immobilità. Per questo le sue visite ci fanno piacere. Vorrei sapere se avevi avuto qualche lettera di Michele negli ultimi tempi. A noi non aveva più scritto. Quelli che l'hanno ucciso non li hanno trovati. E le indicazioni che ha dato quel ragazzo che li ha visti sono confuse e incerte. Credo che a Bruges Michele avesse avvicinato di nuovo dei gruppi politici e credo che quelli che l'hanno ucciso avevano delle ragioni precise per ucciderlo. Ma sono tutte ipotesi. In verità noi non sappiamo niente e tutto quello che riusciremo a sapere saranno altre ipotesi che riporremo dentro di noi continuando a interrogarle, ma senza leggervi mai nessuna risposta chiara. Ci sono delle cose a cui non posso pensare. In particolare non posso pensare a quei momenti che Michele ha passato da solo, su quella strada. Anche non posso pensare che mentre lui moriva, io me ne stavo tranquillamente nella mia casa, facendo i gesti di ogni sera, lavando i piatti e lavando le calze di Flora e appendendole con due pinze sul balcone, fino a quando non è suonato il telefono. Non posso pensare nemmeno a tutto quello che ho fatto il giorno prima, perché tutto quello portava tranquillamente a quello squillo del telefono. Il numero di telefono l'ha dato Michele a quel ragazzo, un momento che ha ripreso conoscenza, ma è morto subito dopo, e anche questo per me è spaventoso, che il mio numero di telefono gli sia passato nella memoria mentre moriva. Al telefono io non capivo niente, perché parlavano tedesco, io non so il tedesco. Ho chiamato Oreste, che sa il tedesco. Dopo, Oreste ha fatto tutto lui. Portato la bambina dai nostri amici, Bettoia, chiamato Osvaldo, chiamato Viola. Da mia madre è andata Viola. Volevo essere io a dirglielo, ma anche volevo partire. E infine ho deciso di partire perché volevo salutare Michele e vedere ancora una volta i suoi riccioli rossi che mi piacevano. Abbiamo salutato Michele nella cappella dell'ospedale. Dopo, alla pensione, ci hanno dato la sua valigia, il suo Loden e la sua maglia rossa. Li aveva su una sedia nella sua stanza. Quando è morto aveva dei jeans e una blusa di cotone bianca con una testa di tigre. La blusa e i jeans li abbiamo visti al commissariato, sporchi di sangue. Dentro la valigia lui aveva un po' di biancheria, un pacchetto di biscotti sbriciolati e un orario dei treni. Siamo andati a vedere la strada dove l'hanno ammazzato. Era una strada stretta con ai lati dei magazzini di cemento. A quell'ora del giorno era piena di voci e di camion. C'era con noi quell'amico che era con lui quando è morto. Era un ragazzo danese di 17 anni. Ci ha fatto vedere la birreria dove aveva mangiato con Michele al mattino e il cinema dove si erano cacciati nel pomeriggio. Con Michele si conoscevano da 3 giorni. Da lui non siamo riusciti a sapere quali erano gli altri amici di Michele o le persone con cui stava. Così la pensione, la birreria, il cinema sono le sole cose che sappiamo intorno alle sue giornate in quella città. Scrivimi e dammi notizie di te e del tuo bambino. Mi succede ora ogni tanto di pensare al tuo bambino, perché Michele mi aveva detto che poteva essere anche suo. Io non trovavo che gli rassomigliava quando l'avevo visto, ma niente esclude che magari sia suo. Penso che noi però dovremmo ugualmente occuparci del tuo bambino, senza chiederci se è suo. Noi, cioè io e mia madre e le mie sorelle, e perché mi sembra che dovremmo farlo, non lo so. Ma non tutte le cose che siamo tenuti a fare hanno una spiegazione. Anzi, a dire il vero, credo che i doveri che abbiamo non abbiano spiegazione. Così penso che cercheremo di mandarti ogni tanto dei soldi. Non è che i soldi ti risolvano niente, essendo tu sola, sbandata, vagabonda e balorda. Ma ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé, e qualche volta fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare nient'altro che la propria solitudine. E allora in questa zona ognuno di noi può trasferirsi per capirti. Angelica. Trapani, 18 giugno 1971. Cara signora Angelica, sono un'amica di Mara e le scrivo io perché Mara è troppo sconvolta per scrivere. Mara mi prega di esprimerle il suo cordoglio per la grande sventura che li ha colpiti e io mi unisco a lei con le mie sentite condoglianze. Mara è tanto sconvolta da questa sventura che per 2 giorni non ha voluto mangiare. È comprensibile, dato che il loro compianto fratello Michele era il padre del tenero angioletto Paolo Michele, questa adorabile creatura che in questo momento si balocca nel recinto, sul balcone, in compagnia della mia propria creatura. E in nome di queste 2 anime innocenti le rivolgo la preghiera di non dimenticare Mara, la quale si trova ora presso di me, aiutandomi nel disbrigo delle faccende. Io non credo che potrò tenerli ancora molto a lungo presso di me, il tenero angioletto e la madre, perché è un peso economico non indifferente e perché anche se sono vicina a Mara come una sorella, ho bisogno in verità di un vero aiuto domestico e Mara ha troppi dispiaceri per prestarsi alle cure della casa che richiedono pazienza, costanza e buona volontà. Tuttavia, né io né mio marito abbiamo il cuore di metterli sul marciapiede. Prego dunque tutti loro di prendersi a carico questa giovane precocemente provata e l'innocente piccolo orfano del loro stesso figlio precocemente volato in cielo. Io ho dispiaceri e preoccupazioni e difficoltà economiche da non dirsi. Ho fatto una buona azione, ma non voglio privare altri della possibilità di compiere il loro dovere e nello stesso tempo una buona azione. La saluto distintamente e le porgo la mia devota stima, fiduciosa che il mio appello venga ascoltato. Lilia Savio Lavia. Mi permetto di ricordare che loro, tenendo Mara presso di loro, avranno la grande consolazione di contemplare i tratti del caro perduto nel tenero angioletto, e sono consolazioni che rasserenano come una rugiada benefica i cuori prostrati da un lutto che non ha conforto. Varese, 8 luglio 1971. Cara Angelica, mi trovo qui a Varese presso uno zio di Osvaldo. Come ti avrà detto Osvaldo, la ricciolata e il marito mi hanno messo fuori casa. Ti ringrazio tanto dei soldi che mi hai mandato, però purtroppo quei soldi ho dovuto darli quasi tutti alla ricciolata, perché diceva che le avevo rotto un intero servizio di piatti, e veramente era verità. Io avevo urtato col carrello nella porta un giorno che avevano a pranzo una dozzina di parenti e così tutti quei piatti si sono sfracellati miseramente per terra. Quando ho saputo che era morto Michele, io mi sono buttata sul letto a piangere e sono rimasta così tutto il giorno, con la ricciolata che mi portava dei brodi, perché cattiva lei non era quando la piantava di pensare alla casa da pulire e ai soldi che si sprecavano. Poi mi sono fatta forza per amore del mio bambino e ho ripigliato a vivere come sempre. E la ricciolata mi faceva delle iniezioni ricostituenti perché ero a terra. Quella tua lettera io non l'avevo fatta leggere alla ricciolata e tutte le mie lettere le tenevo nascoste in un paio di miei stivali. Ma un giorno entro nella mia stanza e ci trovo la ricciolata davanti al comò. È diventata rossa e mi ha detto che cercava lo spremilimone. Io le ho detto che avevo capito che invece voleva frugare in mezzo alla mia roba e lì ci siamo litigate. È stata la prima volta che ci siamo litigate con urli e strilli e io le ho strappato un volant della vestaglia. Poi abbiamo di nuovo litigato con urli e strilli il giorno che mi è arrivato il tuo vaglia. Ma io ho capito che non c'era niente da fare e sono andata a ritirare il vaglia e le ho gettato i soldi sulla faccia e lei li ha presi. Questo è stato pochi giorni prima che io me ne andassi via. Purtroppo ho capito nella mia vita che i miei rapporti con le persone dopo un po' si guastano. Non so bene se per colpa mia o per colpa loro. E così si sono guastati i miei rapporti con la ricciolata. Eppure mi rendo conto che le devo anche gratitudine. Ma non mi riesce ora di ricordarla con affetto e serenità. Sei stata molto buona a mandarmi quei soldi e ti prego di ringraziare anche tua madre, perché penso che fosse stata lei a darteli per me. I soldi, quando tu me li vuoi mandare, io ti ringrazio e li accetto sempre. Però ti devo dire una cosa, per onestà. Non credo che il mio bambino sia di Michele. Non gli rassomiglia. In qualche momento rassomiglia a mio nonno Gustavo. Ma in qualche momento rassomiglia a Oliviero, quel ragazzo che era spesso con Michele e che portava sempre un maglione grigio con due strisce di alberetti verdi. Non so se te lo ricordi, questo Oliviero. Io ci sono stata in tempo forse 3 o 4 volte e non mi piaceva niente, ma guarda che forse mi è successo proprio con lui. Tu dici così bene nella lettera che io sono balorda e sbandata e che tu però mi puoi capire. Anche se sono tanto balorda e sbandata, ho voluto dirti onestamente la verità, perché non ti voglio imbrogliare. Magari sono disposta a imbrogliare tutti gli altri, ma a te non ti voglio imbrogliare. Come tu dici così bene, alle cose che sentiamo di dover fare o di non dover fare non esistono spiegazioni. E anzi, il bello è che non esistono spiegazioni. Perché se a tutto ci fossero spiegazioni, sarebbe una lagna da morire. Poi continuo a raccontarti il disastro che è successo. La Riccioluta e il marito sono andati a Catania in gita. Dovevano stare via 3 giorni, ma gli si è sfasciata la macchina. Così hanno anticipato il ritorno e entrando in casa mi hanno trovato con un loro cognato nel proprio letto matrimoniale. Erano 3 del pomeriggio ed era domenica. Questo cognato era veramente il fratello di lui e il cognato di lei. Aveva 18 anni. Dico aveva perché tanto io non lo rivedrò più. Era presente a quel pranzo che io avevo rotto i piatti e mi aveva aiutato a ficcare i cocci nel secchio della spazzatura. Allora, quella domenica ero solo in casa, essendo loro, come ti ho già detto, partiti per Catania. Stavo mettendo a letto i 2 bambini, il mio e quello di loro, dopo mezzogiorno. Faceva un caldo tremendo. Questo Peppino aveva le chiavi di casa, così a un tratto me lo sono visto davanti. Non avevo sentito la chiave, mi sono spaventata. Era un ragazzo alto, con tutti i ciuffi neri. Mi stava dietro da quel giorno dei piatti. Assomigliava un poco a Oliviero. Ho chiuso le persiane nella stanza dei bambini e siamo andati in cucina. Mi ha detto che aveva fame e voleva una pasta asciutta. Io non avevo voglia di cucinare e gli ho messo davanti un piatto di lasagne. Lui ha detto che le odiava quelle lasagne fredde della tavola calda e sapeva come erano fatte, cioè con dell'olio fritto e strafritto e conservato in un boccione e del ragù ricavato dalla carne avanzata nel piatto dei clienti. Così ci siamo messi a chiacchierare, parlando male della tavola calda e di conseguenza anche della Riccioluta e del marito, sua cognata e suo fratello. E a forza di chiacchierare siamo finiti dentro al letto di loro, perché il mio letto era piccolo. Io gliel'avevo fatto vedere, ma lui aveva detto che era molto meglio l'altro letto. Avevamo finito da poco di fare l'amore e ce ne stavamo abbracciati e in pace, mezzi addormentati e in un mezzo buio. E a un tratto ho visto la testa della Riccioluta affacciarsi alla porta e subito dopo il marito con la sua grande testa pelata e i suoi occhiali neri. Peppino subito si è infilato i calzoni e la canottiera e ha acciuffato la sua maglietta. Credo che abbia finito di vestirsi nelle scale perché se l'è squagliata di gran corsa lasciandomi sola con quei 2 serpenti. Mi hanno detto di andarmene subito. Io ho risposto che volevo aspettare che il bambino finiva il sonno. Però intanto tutti e 2 bambini si erano svegliati e piangevano. Sono andata a fare sulla mia valigia e intanto la Riccioluta è venuta e a un tratto si è messa a piangere sulla mia spalla. Mi ha detto che lei capiva la mia giovinezza, ma il marito non voleva capire e soprattutto trovava che avevo sporcato con suo fratello il loro letto e la casa e anche le anime innocenti dei bambini. La Riccioluta mi ha preparato il latte per il bambino in una bottiglia di plastica. Io le ho chiesto un termos, ma non ha voluto darmelo perché ne aveva uno solo. E uno lei me l'aveva già dato, ancora alla pensione, ma io con tanti pellegrinaggi l'ho perso. Quella bottiglia però doveva essere non pulita e forse per questo il latte si è guastato e la sera ho dovuto buttarlo via. Le ho detto che partivo e tornavo a Roma, però invece non sono partita e sono andata da una fornaia che conoscevo. Era chiuso il negozio, ma ha suonato anche una porta aperta. Questa fornaia mi ha detto che potevo dormire da lei una notte, ma non più di una notte, e mi ha preparato una branda in un sottoscala. E il bambino l'ho sistemato nella valigia di plastica, dove però, a caldo, dalla Riccioluta aveva un vecchio lettino. La sera ho pescato Peppino, telefonandogli alla tavola calda, e Peppino è venuto e siamo andati a passeggio e poi a far l'amore in un prato vicino alla ferrovia. Mentre facevamo l'amore, ho pensato che a me di questo Peppino non me ne importava niente, perché non sento mai niente con i ragazzi più piccoli di me. Riesco a innamorarmi solo della gente più vecchia, quando mi sembra piena di segreti strani e strane malinconie come il pellicano. Però invece mi diverto con i ragazzi piccoli e divento molto allegra e anche nello stesso tempo mi fanno pena, perché mi sembrano scemi e balordi come me e mi sento come se fossi da sola, ma molto più allegra. Era così anche con Michele. Era per me un grande divertimento stare con lui e abbiamo passato insieme delle ore meravigliose. che per me non avevano niente da fare col vero amore, ma rassomigliavano alle ore che passavo da bambina quando giocavo a palla incatenata con gli altri bambini sulla strada davanti a casa mia. Tutto a un tratto lì, con Peppino, mi sono messa a pensare a Michele e mi è venuto da piangere. E ho pensato che non mi riesce più di essere allegra a lungo e non mi riuscirà più, perché penso e mi ricordo sempre troppe cose. E Peppino credeva che piangessi perché la riccioluta mi aveva messo fuori e mi consolava alla sua maniera, facendo il verso del gatto che lui sapeva fare benissimo. Ma io continuavo a singhiozzare pensando a Michele che è morto ammazzato su una strada e mi dicevo che anch'io magari finirò morta ammazzata di notte in chissà che angolo di strada, chissà dove, magari lontano dal mio bambino. E mi sono messa a pensare al mio bambino che avevo lasciato con la fornaia. Così ho detto a Peppino che la smettesse di fare il verso del gatto perché non mi faceva niente ridere. Poi di colpo mi sono ricordata della mia pelliccia che mi ero dimenticata di prendere nella furia ed era ancora là, appesa nell'armadio della riccioluta nel tessil sacco. E allora il giorno dopo Peppino è andato a prenderla, aprendo con la sua chiave, e me l'ha portata dalla fornaia. Veramente non voleva andarci perché aveva paura di incontrare loro nelle scale, ma l'ho pregato così tanto che poi si è persuaso e non li ha incontrati. La pelliccia l'ho venduta a un'amica della fornaia per 400.000 lire. E così con queste 400.000 lire mi sono sistemata in un motel. Dal motel ho telefonato a Osvaldo a Roma, al botteghino. Lui mi ha detto che avrebbe pensato dove potevo andare e poi mi ha richiamato e mi ha detto che potevo andare da suo zio a Varese, un anziano signore che cercava qualcuno che dormisse in casa per non essere solo la notte. Così adesso mi trovo qua, in una bella villa con un giardino pieno di ortensie. Mi annoio, ma sto bene. Il bambino sta bene. Questo zio di Osvaldo è abbastanza gentile, forse frocio. Bello e profumato, con belle giacche di velluto nero. Non fa niente. Una volta vendeva quadri e la villa è piena di quadri. Ma soprattutto è sordo come una campana e così non sente il bambino quando la notte piange. Sono in una bella stanza con la tappezzeria a fiori. Nessun paragone con quel buco dove dormivo a Trapani. E soprattutto il bello è che qui non devo fare quasi niente, salvo tagliare le ortensie e metterle nei vasi e la sera cucinare due uova in camicia, uno per questo zio e uno per me. L'unica cosa è che non so se potrò fermarmi qui, perché questo zio dice che Ada forse gli darà un suo cameriere. E allora se Ada gli dà il suo cameriere, di me non ha più bisogno. Quest'Ada me la trovo sempre nei piedi, le venisse un accidente. Io qui starei benissimo anche sempre. La noia mi sembra che la sopporto. Solo che certe volte ho paura in questa villa solitaria. Una volta io non avevo mai paura, ma adesso a un certo punto mi prende la paura e mi sento la gola stretta. Mi ricordo Michele e mi metto a pensare che anch'io morirò. E forse morirò proprio qui, in questa bella villa con un tappeto rosso nelle scale e con i rubinetti tutti lavorati nei bagni e vasi di ortensie perfino in cucina e i colombi che vengono a tubare sui davanzali. Mara.